rospo di Villa Rospi. Rattino, ti voglio chiedere un favore, disse Sor Talpone una bella mattina estiva. Mi porti a far visita a compare Rospo? Ho sentito parlare tanto di lui che mi sono incuriosito. Oh, certo, tira fuori la barca e ci andremo remando lungo il fiume, rispose compare Ratto. Rospo è un bravo animale, forse non troppo sveglio e un tantino presuntuoso, ma è divertente e generoso. Dopo un po' giunsero in vista di una casa antica di mattoni rossi, i cui prati ben curati arrivavano fino al fiume. Quella è Villa Rospi, spiegò compare Ratto. Le stalle sono laggiù a destra e quella è la sala dei banchetti. Compare Rospo è piuttosto ricco, sai, e questa è davvero una delle case più belle della zona. Però tu non dirglielo, perché lui è già abbastanza vanitoso per conto suo. Legarono la barca e si incamminarono attraverso i prati fioriti in cerca di compare Rospo. Lo trovarono che riposava in una poltrona da giardino di vimini con una grossa mappa spiegata sulle ginocchia. Evviva! Che bella sorpresa! Esclamò balzando in piedi e stringendo loro calorosamente una zampa. È una fortuna che siate venuti proprio oggi! Vieni con me, Rattino, e anche il tuo amico, se è così gentile. Andiamo alle stalle e vedrete. Rospo fece strada e Ratto lo seguì con un'espressione piuttosto scettica. Li condusse davanti alle stalle dove videro un carrozzone da zingari tutto dipinto di giallo canarino, con le ruote verdi e rosse. «Ecco, venite!» disse Rospo. «Vedrete come l'ho sistemato! Ho pensato a tutto io, eh!» Talpone tutto eccitato lo seguì. Ratto invece sbuffò e rimase dov'era con le mani ficcate in tasca. L'interno del carrozzone era davvero grazioso e comodo. C'erano delle piccole cuccette, un tavolino pieghevole, una cucinetta economica, degli armadietti, un sacco di scaffali, una gabbia con un uccellino e pentole, barattoli, brocche e teiere di ogni misura e varietà. «C'è proprio tutto!» disse Rospo, aprendo un armadio. «Vi accorgerete che non mi sono dimenticato di nulla quando inizieremo il viaggio questo pomeriggio!» «Come?» «Oh, scusa, non so se ho ben capito», domandò Ratto cautamente, mordicchiando una pagliuzza. «Hai detto che noi partiremo questo pomeriggio?» «Senti, vecchio mio», disse Rospo, «non cominciare a parlare con quel tono ricercato perché sai benissimo che devi venire. Non posso assolutamente farcela senza di te, quindi la questione è chiusa. Non discutere, non lo sopporterei proprio. Non avrai mica intenzione di passare tutta la vita in un buco o in una barchetta vicino al fiume, no? Voglio farti vedere il mondo. Farò di te un vero animale, caro mio.» In qualche modo riuscì a dare a tutti l'impressione che ormai era scontato che sarebbero partiti. E Ratto, anche se dentro di sé non era ancora convinto, grazie al suo buon carattere lasciò correre e non fece obiezioni. Appena furono pronti e il cavallo grigio fu bardato, partirono. Era un pomeriggio dorato e i conigli che prendevano il fresco davanti alla loro tana li salutarono agitando le zampe anteriori. Verso sera, stanchi e già lontani da casa, si sedettero sull'erba a fare uno spuntino. Alla luce del fuoco e delle stelle, Rospo parlava senza sosta di quello che avrebbe fatto nei prossimi giorni. Poi si adagiarono nelle cuccette e si addormentarono profondamente. Al sorgere del sole, Talpone e Ratto si alzarono, accesero un fuoco e lavarono i piatti e le tazze della sera, mentre Rospo dormiva saporitamente. Più tardi cercarono di svegliarlo, ma per quanto lo chiamassero e lo scuotessero, Rospo proprio non si voleva svegliare. Allora decisero di andare da soli a una fattoria vicina a comprare uova e burro e tutte le altre cose che Rospo aveva dimenticato di portare. Dopo colazione, Talpone prese le redini del cavallo, mentre Ratto e Rospo camminavano vicino al carro piano piano. Non erano andati molto lontano quando sentirono un debole ronzio come se si stesse avvicinando un'ape. Poi, Ad un tratto si trovarono in mezzo a un turbine di vento e di rumore che li fece schizzare nel fosso. Una magnifica automobile rossa, tutta scintillante di cromature e cristalli, sfrecciò vicino a loro con un tonante popo, sollevando nuvole di polvere. Il vecchio cavallo grigio si impennò terrorizzato e, malgrado gli sforzi di Talpone per dominarlo, mandò il carrozzone color canarino a finire nel fosso. «Villani! Pirati della strada! Banditi!» strepitava Ratto. «Vi denuncerò! Avrete a che fare con la legge!» Dopo molti sforzi, Talpone riuscì finalmente ad acquietare il cavallo e Ratto tentò di rimettere in piedi il carrozzone. «Vieni qua, rospo gonfiato, asino stupido e vanitoso, vieni a dare una mano!» Ma Rospo non rispose né si mosse dal centro della strada. Ratto e Talpone andarono a vedere che cosa era successo e lo trovarono come in trance, con un sorriso ebete sul viso. A intervalli mormorava popò, popò. «Ora, cosa ne facciamo?» chiese Talpone. «Non c'è niente da fare», rispose recisamente Ratto. «Lo conosco da molti anni ormai e so che questo è il primo stadio di una nuova infatuazione e che quando piomba in questa mattana continuerà così per giorni e giorni. Non ti occupare di lui. Andiamo piuttosto a vedere che si può fare del carrozzone». Purtroppo il carrozzone giaceva nel fosso tutto sconquassato, con i finestrini rotti, le stanghe piegate e senza una ruota. Cibo e cocci erano sparsi dappertutto. Ratto prese in mano le redini del cavallo e lo condusse al passo. «Forza! Ci sono 4 o 5 chilometri fino alla città più vicina. Mettiamoci in marcia!» «Ma che ne facciamo di Rospo? Non possiamo mica lasciarlo in mezzo a una strada!» «Oh! Lascia perdere Rospo!» Non avevano fatto che 10 passi che sentirono un trotterellio dietro di loro e Rospo li raggiunse e li prese a braccetto, continuando a borbottare cose incomprensibili su motori, macchine e trombe. Appena arrivati in città, si diressero alla stazione, lasciarono Rospo nella sala d'aspetto e condussero il cavallo a una stalla, dando istruzioni per il recupero del carrozzone. Poi presero un treno accelerato che, dopo un'eternità, li lasciò a una stazioncina non lontano da Villa Rospi. Lasciarono lì Rospo, che, come in trance, continuava a borbottare sorridendo, e se ne andarono a prendere la barca per tornare a casa. A tarda sera, stanchi ma felici, finalmente erano di nuovo nella loro ridente casetta sulla riva del fiume.